Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. È in arrivo il drone per la consegna dei pacchi, ma non vola, se ne va in giro su due ruote senza rischiare di cascare in testa a nessuno. Ha esordito per la prima volta lo scorso 4 dicembre a Cremona e anche in questi giorni, visitando il centro storico della città, potreste imbattervici. Lui si chiama YAPE, acronimo che sta per Your Autonomous Pony Express, ed è un piccolo robot, un drone appunto, in grado di muoversi autonomamente per le strade di una città prendendo e consegnando pacchi. Ed è un progetto tutto made in Italy, nato all'interno di Inovia, la fabbrica di imprese innovative che ha sede a Milano, di cui abbiamo in linea il CEO Vincenzo Russi. Buonasera Russi. Buonasera a voi. Dunque Russi, prima di tutto allora descriviamolo questo oggetto, come si presenta, dimensioni, capacità di trasporto e quant'altro. Sì, l'oggetto si presenta all'incirca come un cubo. In realtà le misure sono 60x70x80, si muove su due ruote che sono parallele tra di loro. Queste due ruote sono singolarmente controllate per garantire elevata mobilità, in particolar modo nelle zone pedonali, dove lei comprende è necessario qualche volta muoversi con molta leggerezza e flessibilità. Certo. YAPE nasce come progetto di veicolo autonomo ultra leggero per la spedizione di pacchi di piccoli oggetti. Quindi un robot che sta su due ruote, sta in equilibrio come fanno tipicamente i Segway per capirsi, e che ha un grosso portellone sopra, nel quale si può infilare un pacco, può aprire il coperchio, diciamo, di questo cubotto, che è anche intelligente, in grado di circolare. Dove può circolare? In quali condizioni? Serve un'infrastruttura a livello cittadino per consentire a questo oggetto di circolare, se la cava da solo? No, l'oggetto se la cava da solo, e di qui il termine di veicolo autonomo che noi abbiamo definito. Le motivazioni di questa appunto definizione è perché l'oggetto peraltro si muove all'interno di un contesto urbano e principalmente le aree pedonali e le piste ciclabili, e per questo è anche limitato nella sua velocità. In un caso fino a 6 km orari per le zone pedonali e fino a un massimo di 20 km orari per le piste ciclabili. La mobilità che le raccontavo prima garantisce peraltro al sistema di potersi muovere, in particolar modo nelle condizioni che conosciamo tutti, in particolar modo quelle italiane, intendo dire dove abbiamo piccoli vicoli, all'interno dei quali confluiscono tanto veicoli a motore, quindi autoveicoli, che persone che si muovono, e pertanto l'oggetto deve avere la capacità di sapersi districare in quelle che sono i molti ostacoli che si presentano in un contesto italiano. Dunque Russi, come funziona una spedizione con YAPE? Diciamo che io voglio spedirle un pacco. Che cosa succede a questo punto? Allora, prima di tutto io e lei, quindi il mittente e il destinatario, debbono essere ambedue registrati all'interno del portale che gestisce questo veicolo, e questa registrazione significa offrire, anzi dare delle credenziali, assegnare delle credenziali al mittente e al destinatario. Credenziali che sono anche di tipo biometrico, in quanto il sistema applica dove richiesto e quando autorizzato dal mittente o dal destinatario, applica anche il riconoscimento facciale della persona. Perfetto. Ecco, quindi intanto i due utenti si devono registrare. A questo punto, appunto, io voglio spedire un pacco a lei. Che cosa faccio? Uso un'app o uso un servizio YAPE, quindi è la prima cosa che deve fare. Il servizio, quindi l'oggetto, il veicolo YAPE, la raggiunge dove lei si trova. Questo è un altro elemento particolarmente interessante. Io vengo geolocalizzato tramite il cellulare, tipicamente. Bravissimo. Sempre se lei autorizza, può lasciare il luogo dove prelevare, che la portineria è piuttosto che a casa sua. Quindi se lei invece lo autorizza, lui la raggiunge dove si trova, e a questo punto lei identifica nel destinatario il destinatario dell'oggetto che lei deve consegnare, o meglio che YAPE deve consegnare. A questo punto YAPE riconosce la posizione del destinatario e la riconosce con la stessa metodologia, quindi lo raggiunge. Lo raggiunge, e nel momento in cui lo raggiunge viene applicato lo stesso sistema di riconoscimento, quindi con tra l'altro prossimità del destinatario attraverso il suo smartphone, oltre alla prossimità e riconoscimento facciale, se questa credenziale è stata aggiunta, diciamo, sì, è in aggiunta, e a questo punto il sistema si apre per lasciare che la persona raccolga il pacco che lei mi ha spedito o che il mittente ha spedito al destinatario. Senta, stato di sviluppo del progetto, abbiamo detto un progetto completamente italiano, intanto Yape è una startup innovativa dal punto di vista giuridico e poche settimane fa ha ricevuto un finanziamento privato di 6 milioni di euro, che è una cosa che in Italia non si vede spesso. Ecco, a questo punto che cosa succederà? Noi abbiamo completato le fasi di test a Cremona, con il quale il sistema ha arricchito la mappa che parte dalla mappa di Google, e noi chiamiamo mappa aumentata della città per poter avere le informazioni di dettaglio sulla città. Siamo entrati nella fase di pilota, che significa poter distribuire punto a punto da un mittente a un destinatario alcuni package sempre comunque controllati. Abbiamo le risorse da un punto di vista economico, ma anche ingegneristico, anzi oserei dire prima di tutto, soprattutto, certo, per sviluppare il prodotto, e adesso dobbiamo attendere le evoluzioni normative. Su queste non abbiamo elementi per controllare, ma riteniamo che le accelerazioni siano necessarie. Ecco, lei parla di questioni normative perché in questo momento in Italia, ma in gran parte del mondo direi, l'ordinamento non prevede la possibilità per i droni di circolare autonomamente. Esatto, in Italia questo non è possibile, in particolar modo poi per quanto riguarda Yape il veicolo deve essere classificato dalle normative, quindi dal Ministero. In questo momento dobbiamo muoverci all'interno di vincoli che sono quelli gestiti dalle... Ecco, ed è importante forse che questa regolamentazione arrivi in fretta, non solo per voi. Assolutamente sì, siamo convinti che dovrà accadere, accadrà, perché la tecnologia non si ferma, e anche perché è una tecnologia che si sta muovendo in questo senso per veicoli, per autoveicoli, per camion. Se vogliamo non solo subirla questa rivoluzione, ma se vogliamo essere protagonisti, dobbiamo poter fare sperimentazioni in questo paese. Noi è una tesi che sosteniamo da tempo qui a Smart City, quindi servono delle regole magari transitorie, ma bisogna consentire la sperimentazione, altrimenti appunto la faranno altri, e anche i benefici economici se li prenderanno altri. Senta, in compenso il mercato potenziale è gigantesco, perché parliamo spesso di questa esplosione dell'e-commerce. Sì, il mercato è gigantesco perché non solo c'è l'esplosione dell'e-commerce, ma c'è un'esplosione particolare dell'e-commerce, che sono i modelli di spedizione gratuita, per cui il nostro comportamento di acquirenti è cambiato sostanzialmente rispetto al passato. Significa che oggi effettuiamo molti ordini, non li aggreghiamo e pertanto riceviamo molti package a volte nello stesso giorno dallo stesso operatore di e-commerce. È una situazione che è di nuovo altamente inefficiente e determina i numeri importanti di movimento di furgoncini e veicoli, certo, all'interno. Sia di inquinamento, sia di traffico con problemi logistici, classico furgone parcheggiato in seconda fila. C'è una statistica che riguarda Milano che è molto chiara da questo punto di vista. Sì, sono 150.000 package al giorno per 11.000 veicoli, il 27% dell'inquinamento da trasporto, un sistema altamente inefficiente, certo, e si considera che sono veicoli riempiti al 40% e chiaramente non rispettoso dell'ambiente. Senta, questo oggetto, oltre che per i grandi operatori ormai dell'e-commerce, può rappresentare diciamo una risorsa anche per i piccoli commercianti. Perché? Sì, perché proprio a Cremona abbiamo lavorato non solo con importanti operatori dell'e-commerce, ma anche con il commercio locale o il commercio di prossimità. Le città italiane hanno questa caratteristica di essere poi in fondo piccoli agglomerati nei loro centri storici, anche le grandi città, piccoli adesso in funzione della città, certo, naturalmente, ma comunque sono abbastanza limitate. E comunque diciamo si apre la possibilità per dei piccoli commercianti di offrire servizi paragonabili, simili a quelli offerti dai grandi operatori dell'e-commerce. Mi sembra un dato interessante. Si abbassano delle barriere grazie a tecnologie di questo tipo. Convengo pienamente con lei. Da una parte ridurre l'impatto di un fenomeno che sarà inevitabile, l'e-commerce con spedizioni di piccoli package con numeri molto elevati all'interno delle città, dall'altra abilitare il commercio del piccolo negozio che all'interno della città assolve ancora una funzione essenziale. Va bene, grazie allora a Vincenzo Russi. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. A voi tutti, buona serata.